Riflessi d'oltretevere. Una buona domenica da Katia Caramelli. L'associazionismo cattolico oggi è in piazza San Pietro per esprimere vicinanza al Papa in questo difficilissimo momento per la Chiesa cattolica travolta dallo scandalo, ma anche per dare solidarietà alle vittime della pedofilia. L'iniziativa è stata voluta dalla Consulta Nazionale delle Aggregazioni Laicali, l'organismo che raggruppa associazioni e movimenti ecclesiali, in occasione della recita del Regina Coeli. Franco Miano è il presidente dell'Azione Cattolica. Per testimoniare prima di tutto il nostro affetto per il Santo Padre, per testimoniare la nostra solidarietà a tutti, cioè prima di tutto alle persone che sono state vittime di abusi, così come il Papa ha fatto con dichiarazioni inequivocabili, ma in particolare per pregare e dire il nostro impegno. Lei che idea si è fatta di tutto questo scandalo pedofilia, di come è stato gestito e degli attacchi che ora ci sono al Papa? Viviamo in un tempo in cui il risvolto mediatico sembra sempre più forte e in alcuni casi prende la mano e sopravanza la realtà. Sto prima di tutto a quelle che sono le affermazioni chiare del Papa e le affermazioni ufficiali dei vescovi, che sono, diciamo, affermazioni lineari di impegno nei casi che ci sono in corso. Cosa si deve fare per prevenire questi fenomeni? Per prevenire questi fenomeni io credo che l'impegno educativo a tutti i livelli della Chiesa vada ulteriormente rafforzato, come già si è incamminato a fare, da un lato, e dall'altro vanno immediatamente messi in evidenza i problemi laddove ce ne fossero. Quindi l'impegno educativo, per il discorso che naturalmente tocca a tutti e tocca in particolare ciò che è di lungo periodo, e il dire con chiarezza i problemi in campo laddove questi problemi ci fossero. Così la pensa Oana Guerrieri dei Focolarini. Guardi, noi non abbiamo pensato a nessuna espressione ufficiale e la nostra presenza sarà un gesto silenzioso di preghiera e ovviamente di solidarietà per queste persone. È un momento in cui noi ci uniamo al Papa per tutto quello che lui sta già facendo. Dal punto di vista del suo osservatorio privilegiato, cosa va ancora fatto per combattere questo odioso fenomeno? Il fenomeno è molto diffuso, è delicatissimo, non solo nella Chiesa ovviamente. Questo momento deve diventare un momento di grande riflessione per tutta la società, in maniera particolare per noi che viviamo con una fede cristiana consolidata, almeno speriamo, quindi di impegnarci concretamente a combattere questo fenomeno, studiandolo ed evitando che ci possano essere delle condizioni per cui si possa continuare a diffondere. Le persone non vanno lasciate sole, vanno sostenute e vanno aiutate a superare queste situazioni. Vi aspettate una massiccia partecipazione? Noi ce lo auguriamo, perché la Consulta Nazionale sta vivendo un momento di molto bello, di grande comunione tra i vari movimenti. C'è stata un'adesione spontanea, sincera, a voler aderire. Non c'è bisogno di fare distinzioni tra laicato aggregato o laicato non aggregato. La Consulta Nazionale si fa promotrice di questo momento, ma anche allargando le braccia e l'invito a tutti quanti. Nessuno deve sentirsi escluso. È un momento di preghiera, di richiesta di aiuto anche all'Eterno Padre, perché questo è un fenomeno veramente molto doloroso. Andrea Olivero è il presidente delle ACLI. Esprimere da un lato la nostra vicinanza al Santo Padre e dall'altro lato anche la nostra profonda partecipazione come Chiesa a questo momento di sofferenza, e quindi anche di vicinanza a tutte le vittime della pedofilia, di tutti coloro che hanno sofferto per causa anche di colpe gravissime compiute da persone all'interno della Chiesa. In fondo per noi è il dire che non soltanto i nostri pastori, ma tutto il popolo cristiano si fa carico di questa sofferenza e al tempo stesso rinnova e rafforza il suo compito educativo. Ecco, appunto, su questo terreno, secondo lei, che cosa va fatto? Non dobbiamo farci spaventare, io credo sia importante che a fronte di una colpa che viene riconosciuta e riguardo alla quale naturalmente bisogna fare trasparenza fino in fondo, non ci si deve tirare indietro rispetto a quelle che sono le responsabilità educative, andando di più e forse con ancora più coraggio ad affrontare quelli che sono i grandi nodi problematici del nostro tempo, in particolare la difesa di coloro che sono più deboli, e tra questi i bambini sono sicuramente i soggetti ai quali noi dobbiamo rivolgerci con più attenzione. Come cristiani abbiamo una grande storia a questo riguardo, non dobbiamo dimenticarci che le colpe che in questi mesi sono state messe sotto la lente di ingrandimento, però si accompagnano anche a un lavoro immenso di tutela dell'infanzia violata, di tutela di bambini appunto che vivono in condizioni di povertà, di affanno, di abbandono. Questo io credo ci debba oggi fare ancor più dire che il nostro compito è lì, certamente con più vigilanza, con più attenzione, però al servizio di tutta la società. Ora c'è Don Willy Volonté, ci risentiamo domenica prossima. Più sacro che profano. Sono trascorsi 5 anni da che il cardinal Josef Ratzinger è stato eletto vescovo di Roma e quindi pastore universale della Chiesa Cattolica. I bilanci li lasciamo fare gli storici, a noi solo il compito di rintracciare di questi anni qualche perla generata come nell'ostrica dalle lacrime, come quelle scorte sul volto di Benedetto XVI nel suo recente viaggio a Malta, nello struggente incontro con 8 vittime che furono oggetto di abusi sessuali in anni lontani da parte di ecclesiastici, segno che questo Papa ha gli occhi aperti su tutto, anche sui peccati presenti nella Chiesa, della quale è responsabile ultimo davanti a Dio e agli uomini. La gente l'ha capito tanto che quelle lacrime hanno riportato alcune di quelle vittime a riabbracciare la fede che da tempo avevano rifiutato. Oppure le parole che il Papa ha proposto alcuni giorni fa a Torino, dove era venuto a venerare la Santa Sindone, dicendo ai politici di aiutare la gente a vivere una vita dignitosa, specialmente in mancanza di lavoro, e ai giovani di vivere, non di vivacchiare, come soleva ripetere un giovane come loro, San Giorgio Frassati. È un uomo, questo Papa, che incarna nel presente le parole divenute motto durante l'ostensione della Santa Sindone a Torino. Passio Christi, passio hominis, passione di Cristo, passione dell'uomo. Due realtà che si intrecciano, così che è ben difficile comprendere la sofferenza umana senza trovare che questa trova un senso in un soffrire più grande che l'uomo della croce ci richiama.